fatto su vicino a Piazza Lessigni. Ah, così, ma speriamo bene, va. Già ci abbiamo riempito un po' di bacchinelle, per cui però per stanotte e per domani ce l'abbiamo, va. Dopo vedremo, va. Fa entrare il break, ecco. Avanti su break. Capa, stavo dicendo che qua c'è l'acqua, Sì, ma non è in tutte le zone che c'è, non hai capito? Da qua è andata via, alle 5 è andata via. Ed è aperta dalla parte vostra, però si chiuderà più dal tempo di 5-6 ore, poi va via. Sicuramente sarà così. Allora, lei è tornata verso le 4 e qualcosa, è tornata l'acqua. Sì, stanno dando l'acqua a un po' di quartieri, stanno dando l'acqua e poi chiudono sino a martedì dovrebbe arrivare l'acqua qua. Capo, già che c'è, quante stanotte più tardi hai fatto la doccia? No, io me l'avevo fatta subito, che non si sa, ci manca subito. È arrivata poco fa. 4-5 ore di coso ti danno, mi hai compreso? Anche a noi 5 ore di acqua e poi se ne è andata. Io ho mangiato, me l'ha giù fatta la doccia, io e mia moglie, farò sicuro, se hanno fatto tutto quanto che ci metteva e va. E poi alle 5 ce l'avevo fine, a voi ce n'è andata. Pure in occhi così, pure in occhi. Come veniva l'impresa, sai che c'è in Andia. Ecco, perché stanno facendo un po' di quartieri. Adesso come mollano voi la fanno arrivare da, se ci riescono, fanno arrivare a Ottava, Sant'Orsola. Chiappa, è abbastanza suave. Qua è latte dolce, è molto difficoltoso a far arrivare l'acqua, c'è molta difficoltà. Sono sempre incazzati, è un monte puro, certi punti del monte. Sono sempre arrabbiati, so. Pure lì dovrebbe arrivare più in fretta perché l'acqua di Bidiginzuno che sta arrivando dall'acquedotto su vicino al campo di calcio. Qua già c'è l'acqua, qua arriva sempre prima di tutti, arriva. Il problema è il latte dolce, che non ce n'è. Sono disipirati. Io so che il latte dolce è come Santa Maria di Pisa, che arrivi ugualmente, arrivi. A casa di Babbo non ce n'è, sicuramente non ce n'è neanche adesso. Dio Maria te lo può confermare. No, non ce n'è qua, no. Perché l'ha data, è un'oretta il fatto. So perché l'ha data, per cui. Ma che invece la mia figlia lì, le casette in Canada sono fare c'è sempre, non manca mai visto l'acqua. Perché lì non è, deve essere che c'hanno il pozzo lì. No, è un'acqua diretta, no, non manca mai l'acqua lì, no, non è che ci abbiamo toccato niente, no, c'è sempre, non manca mai l'acqua. Allora è del coso, quella di fronte su a Luna e Sole, quella che c'è l'acquedotto di su, e lì non la fanno mai mancare. Mezzo Luna e Sole ci serve lì. Quella della torre, si va. Lì c'è l'acquedotto lì. Quell'acqua lì, infatti quell'acqua lì l'hanno fatta arrivare al latte dolce, adesso ce l'ha anche Antonio, ce l'ha quell'acqua lì, però no, non va più in fondo. Sì, non abita latte dolce. Sì, no, infatti, ma sto dicendo, dove sei tu adesso? L'acqua ti sta arrivando perché hanno chiuso dalla parte sia il monte che il latte dolce, adesso sta arrivando a voi. Sì, sta arrivando sì a noi. Ma che no, cazzo, ci avevo una zammata, cazzo, come ci si fa di nuovo giorni. Ma che no, chi non sta l'autoclave, che non sta il fermatoio, non sta sotto. so, è un macello veramente, così che, però, ci abbiamo, magari prima avevo la vasca, mi prendevo la vasca e andava più bene, ma adesso vasca, io che ho la ducca, e per cui ho capito, avevo tutto il bacinello, i biduri e robe varie, capito, per avere qualche goccia d'acqua. Pensa che rimane in me la giudicarra, due bidoni da goccia a Sant'Antoni, ai nocchi, a piedi mi la giudicarra fa. Cazzo, ma è ma sballato, ma... Ma se sei tutto che per la forza, beh. E beh, non c'è la moto, anzi. Non c'è la moto, ma se a caricare 3-4 bidoni, la metto sulla moto e te la porto a casa. Sì, a chi sono in deposito la macchina, oh. No, me l'ho portata io piano, me l'ho portata io. Certo, ma c'è, già l'ho visto che ci sono gli autobus in giro, l'hanno fatta vedere alle 2. Certo, è un rebus, vai so. Infatti è un rebus, sì, Marco Mari. Ma mi ho riempito la vasca, ho continuato a riempirmi la vasca oggi, a chi ne ha già trattato un bel deva, e quindi sino a domani sono apposta quando torno a arrivare, ecco cosa è. E mi ha giovato con un coso, mi ha giovato per la tutto canto, ma cosa ho capito, fino a domani. Già un fatto, già è fatto, ti va proprio bene, capito? Non ho cose vere in questo caso, se la vita proprio. Beato, tutto bene? Tutto bene. Ah, devo dire, no? 3B. Bene, ci sta arrivando a te. Sì. Sì, Santiago 910 Radio 5. E io bene ti arrivo. Perfetto, ragazzi. Va bene a tutti. E a voi che mi arriva più forte, va bene la posizione, mi arriva più forte in te perché è una posizione diversa. Ehi, vabbè, tanto quello che sono per la radio, poi Santiago se lo fa benissimo, quello che sono per la radio, Santiago lo guardiamo, ma io non lo guardo quasi mai perché tanto così io. La radio che interessa. Capo, no, non già va bene, è una radio normale, io sto facendo con l'MBP4, non l'ho fatta a 7. No, io sto usando il microfono di valentino, no, lui va bene, va bene così, tutto tranquillo. Questo? Sì, no, già, mi sta arrivando abbastanza bene anche Antonio, a voglia, no, intendo tutti io. Anche se ho messo lo scotch, sento a tutti. E adesso sono da insurito, c'è da più lunga, e forse per quello che ho ricevuto insieme. L'avrei messo il battito della coppa, per mi ha arrivato anche più basso. Vabbè, l'importante è intendisci. Grazie sempre. E tu che vuoi chiedere il tempo, che vuoi chiedere durata, cosa mi fa? Ma penso che ci stavo vicino perché ci aspettavo più strano, più o meno. A me tanto la protesta non mi interessa, che mi fa forse che riesco a capire, quello che conta, vai a te. Gaffa, è quello che conta, sì. No, io c'ho sempre quella, c'ho. Già ho visto la tua antenna, Gio Mari, io c'ho la Ringo, c'ho. Oh, ecco l'antenna. Ma non è la stessa casa che l'ho messo io, capito? L'altra, quella stessa radiale, sì. È 5 metri e 70 quella che sto usando adesso, capito? Per cui un quarto d'onda è questa qua, mentre tutta è la 58. No, pure la mia è così. Ah, così è. Che per la stessa radiale. Cappa! Allora c'è solo la spirale, della Lem è la tua. Beh, era la fatta della Sirio, vero? Cosa è mezzo della Sirio, capito? No, la mia è Lem. Va bene, va bene, va. Sì, va bene, va bene. Vuole fuori questo supera. Supero. quando vuoi da su, però quando non vuoi da Noanna. Ah, col tu giù io. Allora, questo è la casa del diavolo. Allora. Non ha gana a dire. Non ha gana a essere rimanere a lungo. Peggio baedda. Beh, adesso è babuzzo io. Come sta usando, vero? A te. Eia. Il padre non lo sta usando più, Baracchi. Come? Non ho capito, Giomari. Ho detto, tuo padre non lo sta usando più, Baracchi. No. Non gli interessa più, no, Giomari. Ma è Torino. Su, su, Remo. Sebe. Altra cosa. Perché va bene, vabbè, se non lo va bene di salire. Per Reva, avanti tutto. Aspetta, c'era qualcuno che voleva entrare. C'è che vuole entrare nel canale? No, forse ero io che mi è mancata la portante. No, ma c'era, sentivo un'altra portante più bassa, sentivo. La tua è forte, quest'altra è più bassa. Beh. Se vuole entrare già tornano a bussare. Ma aspetta la porta ancora. Grazie, la porta, basta spingere e per cui è aperto. Se vuole entrare, entra. Ma avanti anche tu. Capo, ho cambiato apparecchio. Chi ci avviate? Per me sei sempre il vostro. Anda benissimo. Capo. Chi c'ha sta cosa? Perché Antu? Non so qui una cosa. Hai compreso Gian Marino? Vabbè, ognuno fa quello che può, so, e non so tutto se lo posso permettere, capito? Tanto dici che ci siamo anche con quell'altro, per cui non vi sono problemi. Siamo due passi, per cui ci allungiamo la mano, ci accoppiamo e non per bisogno di tanti cose, capito a tutti? Capa, prima era due passi, avevamo su Gubbia due passi. Sono un po' più lontano, ma già arrivo a Roma a Tese. Arrivi, certo. Come arrivi, certo. E forse lo facciamo arrivare, perché come andiamo lì, come andiamo a ora. Così è certo. E infatti, è così. Tanto non v'è nulla delle cose. Quando l'antenna è buona, a cosa, a posto, bene, tutta quanta, vuol dire che arrivi in tutti i posti. Sì, ma così uno, ma così muove, uno vuole stazionare, faccio. A voglia che va bene. Sì, a voglia. Da son basse. Almeno, ma così muovi. Non il coso. Fa vedere. Fermo e fermo rimani. Ma io faccio questo, io. Già non mi faccio, ma poi ho uno e due e mezzo, uno e due, va. Però l'ho lasciato lì a occhio più o meno, capito? Mentre invece anch'io l'ho regolata proprio a regola basso, capito? Però a me mi veniva male, più o meno lo vedo. Perché la mia si regola dalla punta anche. Quella lì non so quella tua. La mia si regola dalla punta, la puoi allungare e la puoi fare scendere, capito? No, la mia c'è dalla spirale, niente punta. Lo sa cosa è, tanto guarda, no, non è che devi metterla, allora, prima di regolarla, la devi mettere in basso, la devi mettere, la regoli, tanto non c'è bisogno di altezza per regolarla, tanto che basta. Quando è a 1,1, allora la puoi tirare su, così deve fare, perché io qua questa, non l'ho fatta qua, c'ho il cernaio io, l'ho aperto, me l'ho regolata prima dentro casa qua, quando era 1,1, ho preso e l'ho buttata su, e non l'ho giocata più. Va bene, la metto come l'ho regolata io, l'abbiamo regolata qui e basta, e l'abbiamo messa dritta, ma va bene, 1,1, capito, non mezzo. Per cui non mi sento bene, male che vada, c'è la salvatore, per cui fede, c'è poco che la dovrebbe buttare fuori subito, capito? Vabbè, ma io l'ho voluta fare così perché l'ho voluta fare bene, anche se ho pure i motivi miei, puro, accordatore, meno ce ne stai meglio è, perché se spingi poi è un macello, ecco, le stazionarie alte. Uno e due, vabbè che c'ha, non è che c'ha la moto, e la quello va bene, certo. L'importante è che non lascio la portanza un'ora, capito? Per cui quando parli non è che non stanno a mollarla, capito? Se lui va bene così, ho visto che mi sentisse che va bene da me. Così è stato. Sì, Angio Maria, infatti è così. Ehi, questa è stata regolata già dal coso suo. Uno di stazionari e boh, e non siamo così in movie la breccetta, così è, così è rimasta. E quella è stata fatta così e si è fatta, certo. Infatti tu l'hai presa già direttamente regolata, perché è stata regolata da lì direttamente, capito? L'hai trattata va bene di lì. E quella che c'è risposto, capito? Per chi la va bene, e la voglia, certo. Infatti, è così, così è, così deve rimanere. Infatti da fine giugno ai primi di luglio salgo a controllarla e mi sa che cambia anche il tubo che entra nel tetto con tutto l'altro. Mi sa. Quella è la cosa molto importante. A me voglio la pulizia e la controlli, e se c'è da fare qualcosa la fai, per cui devi fare di più. Se ne è più voglio almeno più l'inspezione più inserita, capito? Ok, bene, vai a tu. Capo, ma perché problemi ti sta dando? No, ma voglio cambiare il tubo, metterlo dritto, il tubo che perché è un po' rovesciata, ecco cosa è. E io la voglio mettere tutto dritto, voglio metterla dritta e così la aggiusto tutta quanta. Perché ho intenzione di metterne un'altra anche, diversa per l'ascolto. Allora se così già fai bene. Bene, sei così. Quanto c'è già? 5-6 anni c'è sul tetto, vero? Sì, 6 anni buoni c'è. La voglia che va bene. E ancora da avere. Da si buca non si da si buca. Si gocca, però non si rovescia. Perché flesce quella so, flesce parecchio. Quella va bene, si rompe mai. Cazzo, già lo dico, come si fa già? Ah, proprio sulla tenda, è impossibile, capito? E infatti, uscire e uscire adesso. Se ho la sposto da quel tubo e la metto al tubo centrale. Ehi, questa è quella che fa Manuele e a Bisignere, che l'aveva fatta a Franco, la stavano piazzata a Bisignere, l'ha tagliata, ragazzi, in due, ecco. Non è servita più quell'antenna, peccato, era bella quell'antenna di Emanuele. Quindi c'è fasciata, quanto mi risulta. È fasciata là, e allora, non so come ha fatto, era rotta, capito? Un peccato quell'antenna. Emanuele che fine ha fatto? Emanuele a casa sua lì non le può mettere l'antenna, per cui... Si è messo a mettere il PNR, però 27 sono portate le cose che sono fatte, è chiuso, capito? Scappa, ma come mai non può mettere l'antenna? Ha problemi? Perché ha cambiato casa, non abita più qua. Adesso abita a Santa Maria di Chiuso, per cui vicino a Mario Manco, sulla parte di dietro, lì abita, per cui no, non si appoggia, capito? È stato permesso, per cui uno va così, può portarsi la scorta e basta, capito? Nel coso deve metterla, come si dice? Io dove l'ha messa Mario, proprio lì, si abita lì, nel coso attaccato al coso del tetto lì. No, l'ha promesso, Mario, non è con la cabina dell'ascensore, per quello che l'ho pensato a colazzare la cabina dell'ascensore, perché lui non le ha, capito? Quindi c'è da capire che il mio piano ha secondo, per cui devo fare. E poi il tetto si è fatto tutta la viera di sempre, è diversa la questione, il tetto, capito? Non è proprio sulla parte della di Samario, a fianco, quella di fianco, quella del traverso. Io per metterla lì non c'è problema, c'è anche la terrazza su, che no. Non è tetto tegole, no, quello, se sto parlando quelle case lì, in chi già veniva a punirla. Sì, cioè, avrebbe fatto bene, l'avrebbe piazzato, perché non dice, non si può piazzare, ma già c'è importanza, però ogni tanto ci aspettiamo la PMR, la PMR già arriva, e per cui è tranquillo, va. Grazie. Però quando io la vedessi la strada, la via piazzata, ma non abbia fatto diverse lì, c'era anche un altro, c'era, che ce l'aveva. E io vicino a Mario Maggi c'aveva anche da uno, anche da uno, che ormai non c'è più lui, capito? Per cui hanno smantellato tutto, e per cui, però, la passare dietro, non se ne sta prendendo nessuno, capito? Per cui il tetto lo deve bene appiattare. Ha provato qualche dico lì, è interrattivo, ma non va, è chiuso. Cosa vuoi qua? Cioè, però è strano, cavolo, c'è il tetto è a coso, Giovanni, è a catrame. E vabbè, magari bisogna fare un lavoro particolare, non è che non si possa neanche piazzare. Ma lì lo volevo prestare a nessuno, capito, per cui se va poco, per cui per adesso l'ha capito con me, capito? Non l'interessa più del tanto, capito? Non sappiamo quanti sono in Chivi. Ok, era lui da fare, vai tu. Infatti, vede lui, so che non gliela fanno piazzare, ecco cosa è. Ha provato a chiedere e non vogliono piazzare nulla sul tetto. E non si può. Andiamo! Andiamo verso. Se ti piace così, se no ti raggiambi. Avanti! Buonasera! Ciao Ottore, ciao Giovanni e ciao Antonio! Antonio, c'è con due, chiamate sul 10, quante bombone ho sentito? La cavalletta, perché non è da un canale all'altro? No, veramente io da qua ci sono da un bel po', Ha già fatto un paio di bruci, ha già chiamato, buro bombo, lo va! Diteglielo voi da quando ci sono qua. Ciao Luca, c'è dalle 7:50 qua. Vabbè, c'ho la vicina di casa, mi ha chiamato con un problema alla cassata dell'acqua. In bagno, cioè se lì ci arriva l'acqua, non si bloccava, adesso non si sa se le cose, le galleggiante, vabbè, comunque. C'era una mezz'oretta e più. E l'ho chiamato, comunque sento i fischi tuoi, ti ho chiamato, però niente, vabbè, dai. Avanti Giovanni. Ciao, buonasera. Aspetta che ti faccio una bassa, va bene? Via Giovanni, vai, che torniamo a freddo i fai oggi. Riprendi tu. Via, ti attacchi freddo, vai. Vuol dire che non c'è sangue allora. Vero Antu? Capo, no, qua già ci sta bene, non è ho su faccella, va bene, in occhi. Vabbè che qua sopra si sta bene, perché io ho il coso, ho il soppalco, c'è come camera da letto, c'ho il soppalco e giù c'è la cucina. Va bene in campagna, c'era freddo. Lascio a casa, vabbè, non mi... c'è il telefono un attimo. Ehi, è cappa. spegna tu, io busco il governo che con un riscaldamento, una buglia, cazzo. Hai sotto la tranchetta che ne arriva in una perturbazione d'aria fredda. Ma che tu mi sia fare un gas arriva un freddo, come te già dice questa cosa? Ma sono a temperatura artica. E cosa vuol dire? Vuol dire che fa freddo. E tu mangiare le raccoltelle al canale 5 che dice che sta arrivando, che sta arrivando una perturbazione la numero 5 di marzo che sta arrivando aria artica. Cosa vuol dire? Aria fredda. Per carità, ma che dove mandarsi in arrumare? Andarsi in arrumare che c'è per un gas, per un freddo. E già lo sai come te in marzo, pazzerello, guarda il sole e togli l'ombrello. Lo so, buia. Mamma mia. Non si buono. Purtroppo il tuo mese è così. Poi da più adananzi, da al prossimo mese, si dice apri il pugno un po'. Un po', no assai. Come sta già un gatto. Infatti. E così, e bisogna andare piano piano. Cappa. Su via. Aspetta, sono i pantaloncini, no? Che già si sta sto scendo giù non più. Sto scendo giù la verità, Prego. Avanti, break. Ciao, Maria, ciao, Gianluca e tutti, ecco tu, e allora c'è tu. Cappa, buonasera Marino. Allora, sì, buonasera signor Marino. Caspita, bello pippante sì, stasera con la doccia però. E anche io già il viaggio qui da un bel freddo, oggi è capitato una cosa, perché lasciamo perdere. Ma vedi da me, vai chi vi do? Sì. Dalle 10:30 fino alle 5 ce l'avevo, poi è andata via. No, io sono venuta, qui stava a 0 e poi sono 0, un casotto. Allora, c'è tu. No, io non che ce l'avevo, va, però... Sì, vabbè, ho detto sul cellulare che ci hanno riparato il bel coso del guasto e piano piano stavo andando, ma... Io ho un casotto, lo spostato e stampa. Bene, Giovanni, se sei arrivato, avanti. Sì, sono qua, Mari, buonasera, ben sentito. Un po' in mezzo a correre ti sento però, che ho riuscito a capirti abbastanza bene. Io vorrebbe essere Luca, pure Luca. Ok, ciao Giovanni, ben sentito. Avanti Luca. Ci deve essere assentato Luca. Quella che stanno mandando a noi è l'acqua, quella dell'acquedotto, quello di fronte alla Torres. Da lì la stavano mandando. Però, cosa ho letto? Che nel telefonino che l'hanno aggiustata. Ma ci vuole un giorno per riempire tutto quanto. Ecco cosa è. L'importante è che, come ha detto il cuore, che sia fino a martedì non l'abbiamo. Speriamo bene che venga anche martedì, vai. Questa giornata di domani dobbiamo avere pazienza. Già ce l'abbiamo lui la provvista per domani, per cui speriamo bene dopo domani, allora che sia, vai. Speriamo bene, ok. Riprendi. Ok, ma io già c'ho lo studio del 2005, già la sta lontana da mia confidanza, da come fa a fare il mio rientro? Sì, come fa, faccio una soppiena, si sta mai per domani, io ci sono, ma io l'ho consentato a casa. Bene, allora c'è Antonio, non rientro, avanti, Tore. Si deve essere assentato Antonio. Il fatto che adesso lo fanno vedere, l'hanno fatto vedere a telegiornale adesso. lo dicono adesso, lo dicono. Ci mette un giorno a riempire tutti i vasi, ecco cosa è. Dice, c'è un tubo manno da 20 metri in acciaio. E speriamo bene. Se siete morti tu, il prossimo se ne faccio le giraffe. Questo lo faccio un altro. Allora, c'è tu. Capo, non ci devi fasciare. Ma roba da macchina. Non dico anche dell'acqua. Poi a zone. Ogni zona ci mette la sua faccina e vede le cose. E ci siamo pure, c'è tutta la provincia 60. Ma stiamo scherzando. Avanti, Giovanni. Mari, ma tu non c'hai il posto? Oh no, non hai il posto tu. Un attimo, ce l'avevo il posto Giovanni, come vedo tutto, l'avevo pezzo di dietro, mi è costato l'anno perché se no non passavo il frazionamento della vita, capito? Io pensavo che se ci avessi l'acqua del posto, invece c'hai l'acqua di qua c'hai pure, vabbè. Perché se no sarebbe sciolto tutto, Cazzo, in campagna mia non manca mai l'eva. Mi neva canto di molto, Maria. Però è lontano, però tu che abiti lì, da quel posto sarebbe stato comodo, Per cui, purtroppo devo andare così. Purtroppo è toccato avanti il lasciaio perché... quando fa le frazionamento il cassetto sono non li faccio mai passaggio, capito? Da un cosa all'altro. Poi se volevo potevo metterci una pompa anch'io dentro, ma siccome è antipatico questo di anche questo terreno, non mi vado sia parte, ho capito, ma quello magari c'è qualcosa, molto non vuole di naso e via. Già c'è un lato confinante in gamba già. Già ci scambiamo le cose fra me e lui. Basta che sia tranquillo e coso, lui dell'altro a poter dirmi, e sarà così. Oh, io c'era stato che a te me l'aveva fatto un botto, in Chivi. Ma adesso lo so, adesso ho deciso, vediamo. Se mi capita qualche soldi del più, non lo faccio, capito? Non lo faccio, da parte. Faccio dal posto, se mattoia, posso anche innaffiare dopo, capito? Bene, vera. Avanti, Antonio. Antonio, non prende. E lì da mia figlia, la Maricazza, ha 80 metri, c'è acqua che non finisce mai, perché quelle zone lì, è tutto acqua sotto, da poco profondità, ha 80 metri, c'è acqua che non finisce mai, Mari, per cui io... Caccia, se avessi avuto le possibilità me l'avrei fatta, però se non ci sono possibilità va bene, ma se uno ha le possibilità l'acqua del posto sarebbe l'ideale, per cui quando manca uno ma almeno sai l'altro, tranquillo. No, quando si può fare, quando non si può fare, cosa si deve fare, capito Mario? Ho capito, sì, ma questo momento 0.0, non si può fare. Bianco, per me, dai! Ci sentiamo! Ok, ciao, Otto, con calma ci sentiamo, sempre in casa, ciao! Avanti, Giovanni! Ciao, Otto, buon proseguimento, ciao, ci sentiamo, vai, ciao! Ciao, Otto, stammi bene, buona carica! Ci risentiamo alle prossime, ok, riprendi, Mari! Ciao, vai! Certo, se avrei avuto l'acqua anche in campagna, io sarei stato... No, non ci sono stati problemi, cazzo. Lì a te l'acqua, vabbè, non manca mai io. Poi c'è 24 di rete, non manca mai. Troppo lontano, per cui qualche volta sono sceso, forse all'inizio. quando mancava l'acqua, quel bidone me lo prendevo la campagna. E per cui è lontano, però uno che abita in campagna meglio che ci sia il posto, anche se c'è l'acqua della città, l'acqua del posto è sempre utile per tutte le cose, sia per i raffiari, sia per quando manca quell'altro, c'è l'acqua disponibile, capito? Infatti, ma è così vuole, purtroppo deve far così, dopo il capo. Salvatica non può se tenere di Abanoa. E paga, sta pulita pure. Infatti, sta pulita un bel. Aspetti che venne, mi è arrivata la bolletta del condominio. Quindi va dove ti arrivi chissà di gas a buco. E vai il lupo. Però in realtà è ripulita, capito? Però i soldi già li vogliono, non manca niente, ti fanno pagare anche il ritardo, Infatti si fanno pagare, poi un ritardo si fanno pagare. Il ritardo sì, ma è visione. Però io sto fare il conto, quando arriva l'acqua, mi dico che non è un'ora buttare l'acqua, perché arriva a fango, a me, capito? E chi sei che non la paga? Quella non la paga, mi devo fare da io, capito? Un cabarone non è a colpa, il tubo che si trova tanti anni, per cui sono tutti marchi, per cui è così, sono tutti marchi, se lo fanno lì nuovi, sarà sempre, magari aggiustano qua e si rompe un altro posto, perché stanno facendo così, finché non mettono tutta la tubazione nuova, però fa mettere tutta la tubazione nuova. Ero lei che si fa in una settimana, non so. Mi sto guardando, dicono che il problema finisce domani, finisce. Arrivederci, Sardegna contro Sardegna. Mi ha dubbo, ga. Sono Sardegna contro Sardegna. Dice che il problema finisce domani. Domani? Speriamo bene allora, va. Perché stavo mettendo tutti di nuovo per di nuovi, non credo. E ci vuole anche il tempo suo, capito? Poi quei tubi non è che siano tubi come quelli che siamo sulle antenne. Quei tubi sono brutti e molto, molto alti, capito? Sono tubi grossi e piccoli. Ebbene, la metto televisione, sì, la metto al pronto. Cos'è? Non ho capito nulla. Metto, se l'hai sentita la televisione, cosa ha detto? Ha detto che il problema finisce domani, finisce. Ecco, vabbè, va bene. Avanti, Giovanni. Speriamo che sia domani, che finisca domani. Però è un macello veramente, però... Non ci possiamo fare niente, vuol dire che andremo all'autobus e ce la riempiamo. Cazzo, bravo, per carità, cazzo. Già siamo 2 anni in questo particolare, se non metto tutta la condotta nuova, siamo sempre la stessa faccenda, è inutile. Tutto vuole cambiare il tubo, perché troppi anni ci sono sottoterra e per cui sono tutti marchi. Basta avere un po' di movimento e si rompono quei tubi, perché sono marchi adesso. Poi basta aprire, invece di cambiare, mettono le braghe, capito? Mettono le braghe, costa di meno e sono veloci. E il tubo è marcio sotto, capito? Basta avere una vibrazione del terreno e si spacca. A lui sembra facile, però già lasciano loro cosa fare, cosa non fare. Io non ho il tempo suo anche. Un tubo d'acciaio di 20 metri hanno messo, dove si era rotto, hanno messo un tubo d'acciaio di 20 metri. Pensa un poco, quello d'acciaio non si rompe così, no? Quello d'acciaio hanno messo un pezzo l'anno scorso, dove c'è la campagna di Bacchizio, ha ingrassato. Hanno messo, non so, 10-15 metri di tubo, d'acciaio inox, bello grosso. Ha aperto l'acqua e io, dopo 2 giorni si è spaccato qua il tubo più avanti, figurati, ma ok, approfitto che mi sta chiamando mia nipote, ciao Tore, ben sentita, domani se coincide, ciao Gio Maria, idem, saluto di casa, saluto tutti gli ascoltori e poi ecco le 20, dai. Ciao Maria, complimenti a noi, saluto di casa, Allora Mario, senti se va bene, buon proseguimento, vai tu. Ok, ciao Mario, stammi bene, buona carica e tutto quanto. Ok, ci risentiamo domani. Va benissimo. Ti prendi Gio Mario. Ok, Marcello è te. Perché stavano ancora saldando, stavano, no? No, hanno finito di fare tutto. Che devono riempire i vasi, riempire quelli ci vuole, un giorno ci vuole per avere l'acqua a tutti quanti, ecco cos'è, che devono rifornire anche Porto Torres, Stintino, o Castelciardo, Sorso e Tergu. Beh, è chiaro, andare a riempire quella cistone ci vuole anche il tessuto. E vabbè, ma dai, forza l'acqua a rubare ai vasi, tanto c'è per cui, però ci vuole il tempo suo. Allora domani magari, massimo domani sera abbiamo l'acqua, vai, speriamo bene. No, certo, per cui importante abbiamo chiuso tutto e lasciamo che rientrano questi vasi, vai. Infatti, basta che riempiano quello. Mi pare che finisce non so quanti litri d'ene ognuno di questi. Quindi ognuno di quelli da coso a Porto Torres, Stintino, Castelciardo, Tergu, ognuno di quelli lì. Passa per tutti quei paesi, insomma, certo, lì ci sono dei paesi e per cui l'acqua ce ne vuole, per cui ci vuole anche il percorso arrivare a rifiuti, arrivare a distrazione. Non è tanto facile. Ci vuole il tempo suo, bisogna avere pazienza e là, l'importanza è che sia tutto pronto, vai. Sono il giorno più, il giorno meno, dove scende l'aria. Vabbè, da Pozzudorra ha messo, ha riaperto i pozzi e si stanno rifornendo dai pozzi, si stanno rifornendo. Quindi a voglia ci viene leva. No, a noi che prima con l'acquedotto che c'era di fronte alla torre ci dava lavare va tutto già salì. Prima era così, ma adesso queste righe che hanno fatto nuove, per cui cazzo sta certo. Anche Cuga, capito? C'è tutta la lunga, Alghero, e ci vuole anche tempo, insomma, il macello è. Per cui il tempo suo, vai. In un anno dovrebbero fare quello del Cuga, portare l'intubazione del Cuga. Dovrebbero portare a Troncureale in un anno. Sarebbe ideale, ma sa quanta acqua mandano verso tutta la Lura, non è vero, tutte le campagne sono tutte innaffiate e acqua che ne vuole, cazzo, non è vicino, cazzo, lì sono tutti i giorni innaffiando, cazzo, tutti gli esseri, acqua da innaffiare, tutta la Lura devo innaffiare. Non basta mai l'acqua sotto. No, se portano quella del Cuga con due tubi dovrebbero andare bene, non manca più l'acqua. In un anno se fanno l'intubazione, che portano l'intubazione dal Cuga sino all'acquedotto di Troncureale, non dovrebbe mancare più l'acqua. Si chiamerà tracce tra questi altri punti. E così, non solo a Sassari, no. E il continente è la stessa cosa, mi sento tutti e sono peggio di loro. Vabbè, ma cacca, non c'è una cosa, voce ambada, bisogna che la cambiano loro. L'unica cosa che devono fare è far finire questa farla iniziare, far finire questa del Cuga e danno il cambio all'altra condotta e aggiustarla come si deve. Ci vuole solo di tempo, solo di tempo, insomma. Ci vuole solo di tempo, per cui i problemi ci sono stati sempre e ci saranno sempre. Prima magari pensavamo quell'acqua di Munari. Cazzo, però adesso la città è più grande, per cui non basta più, e nemmeno quello di Cuga. ascolta, ti puoi legare, il telefono lo ha qua, qua, lì che grande è stato lì. Non è come è 30 anni, 40 anni fa il nostro. Vabbè, a Bedeginto è 60 anni piazzata che si è condotta, fa 60 anni va, quindi ci sa di Bunnari, da 40, penso un poco, che io le avrei ripristinata anche quella di Bunnari, l'avrei fatta arrivare a Sinaggiosso. E quella di Bunnari la faccia Muscolini lì, quella di Bunnari la faccia Muscolini, però le condotte sono sempre più vecchie, ecco, sono tutte rotte anche quelle lì, intanto si spaccano. Vogliono cambiare quei tubi, capito? Perché se non va, se magari giusto non brucia va e va a finire, si rompe in un altro posto, capito? E dopo tanti anni, che cazzo? Sì, è un bel danno che sono fatti delle condotte lì. Purtroppo le condotte sono al collabrodo, sono. Fate che forse ne chissà la nuova del Cuga e poi da tenere un giambo a chissà di Bedeginto la pone a posto, ecco cosa è. I soldi già ci sono, li hanno stanziati i soldi per fare una condotta nuova e per fare aggiustare l'altra, ecco cosa è. È solo che vivo un tempo, vivo fa con Salli. La burocrazia è invece, sì, la destinazione non arrivano intatta i soldi, capito? La metà si le mangiano loro e non finiscono mai. Sì, ma i lavori dovrebbero iniziare a ottobre, quelli del Cuga. Dovrebbero iniziare a ottobre, dovrebbero iniziare, a meno che non so di che tagliano. Vabbè, io ne approfitto, Gian Maria, i miei sociamenti. Ci risentiamo domani se tutto andrà bene, ok? Buona carica e tutto quanto, alle prossime. Ciao Gian Maria. Ok, ciao, senza le carte. A domani, va bene. Buon proseguimento, ciao. Ciao Gian Maria.